raccontare anche quello che ci piace, che ci interessa, però poi dobbiamo anche augurarci che la gente ci segua e che venga poi al cinema, nonostante sia un momento un po' di calo, perché essendo un po' la stagione sta un po' finendo, insomma. In chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Ah, per sapere di più, comunque, le pagine libere istituto Luce, la mia pagina personale, ma comunque digitando uno sguardo alla terra di Peter Macias, ci sono tantissime già notizie, sta andando discretamente bene la questione stampa, l'hanno visto tantissimi giornalisti e il film, insomma, sta piacendo. È un film, come ho detto prima, diciamo non difficile, è un film che vuole raccontare veramente che cosa sta succedendo nel mondo, e lo fa attraverso il cinema, che è forse una come dire, delle arti più dirette, se vogliamo. E dunque, niente, siamo contenti che adesso sta arrivando al pubblico man mano. Ci sarà poi in autunno anche una prima televisiva, però ancora non possiamo svelare dove sarà mandato in onda. Senti, vale come uscita nazionale la data del 3? Sì, vale l'uscita, sì, del 3, perché comunque dal 3, dalla data romana, come vi ho detto prima, poi ci sarà un susseguirsi di date giorno per giorno che vi ho elencato tra la Sardegna, la Toscana, diciamo il Piemonte, insomma, man mano toccheremo tutte le maggiori città italiane. Bene, allora ricordiamo Uno sguardo alla terra di Peter Macias in uscita in sala dal 3 maggio con proiezione a Roma all'Apollo 11. Peter, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie, crepi lupo, un abbraccio a voi, grazie. Siamo in compagnia del regista Roland Seiko, direttore della redazione dell'Archivio Luce, per parlare del nuovo portale web dell'Archivio Luce. Roland, ben trovato. Grazie per l'invito. Ci parli un po' di questo progetto? Sì, il progetto della presentazione del nuovo portale dell'Archivio Luce è una continuazione, diciamo, di quella presenza che l'Istituto Luce e l'Archivio hanno avuto online già agli albori di Internet. Il Luce già negli anni 90 ha cominciato a catalogare, a digitalizzare, il suo patrimonio è enorme. E col passare del tempo tutta la catalogazione che cresce in ogni momento con l'acquisizione dei nuovi fondi o cresce anche nella descrizione dei contenuti, è stato messo online, questa volta con un occhio diverso che mette un po' in evidenza i filmati. Praticamente è stato creato un portale che ha anche un'interfaccia redazionale dove si cerca almeno di dare a dei numeri, a degli elenchi infiniti di video e di foto una forza diversa, mettendo in evidenza la loro capacità narrativa praticamente. È un patrimonio che in tutti i modi deve essere portato un po' alla portata, deve essere portato un po' all'attenzione di tutti con le nuove tecnologie e l'altro, e questo il tentativo di adesso di renderlo ancora più accessibile, secondo noi, praticamente, va in linea con una politica che il Luce ha seguito sempre per rendere i materiali disponibili tutti, essendo Roland, di quanta mole di materiale stiamo parlando? Parliamo di un archivio che ha messo online quasi 80.000 filmati che passano dagli inizi della cinematografia fino quasi ai giorni nostri. E questi filmati sono costituiti in maggior parte da cinegiornali, produzione dell'Istituto Luce dagli anni 27, dal 27 fino al 43, poi tutta la produzione cinegiornalistica degli anni a seguire, dopo la liberazione, quando il Luce non aveva più il monopolio ma passava alla settimana Incom. Sono testate che erano private, che poi col passare del tempo sono fallite, ma l'archivio Luce ha avuto la lungimiranza di acquisire le pellicole e creare così un archivio proprio ancora più grande. Parliamo di materiale che è prevalentemente in pellicola, dunque anche prezioso. L'archivio luce comunque è fatto sia da cinegiornali, l'archivio cinematografico da cinegiornali, ma anche da documentari e repertori. Sono quasi 5.000 documentari di produzione sia del luce che dell'altro, che coprono un periodo storico sempre dagli inizi del Novecento fino agli anni 80-90, e i repertori che sono i tagli molto interessanti, tagli che arrivano da cinegiornali, da documentari che non sono stati montati. Oltre all'archivio cinematografico c'è un ricchissimo archivio fotografico che è anche quello storico nella sua estensione temporale, dagli inizi della fotografia quasi fino ai nuovi fondi acquisiti ultimamente. Parliamo di materiale che è online, quasi 450.000 fotografie che sono pubblicate e consultabili gratuitamente. Roland, come è strutturato il portale in sezioni? La novità di questa volta, come accennavo prima, è che abbiamo anche un sito redazionale, il sito redazionale che cerca di mettere in evidenza le chicche d'archivio, oppure propone dei modi di come poter utilizzare l'archivio. C'è una timeline che fa richiamo spesso agli eventi, agli anniversari, mettendo in evidenza le fotografie o le foto che hanno a che fare con quell'evento. C'è una sezione nuova di mini doc, che sono dei piccoli documentari che la redazione produce da solo per poter mettere in evidenza anche come si possa utilizzare questo materiale, di come si possa raccontare una storia, non soltanto col materiale d'archivio che fa sempre da padrone, ma anche con l'aggiunta di nuovi filmati. Ci sono degli esempi di installazioni, di altre cose che possono forse non soltanto raccontare, ma anche invitare gli altri a farlo. Poi nella parte più importante, decisamente quella della ricerca, si aiuta questa volta con un intervento redazionale a prendere per mano un po' l'utente ad andare in questi meandri infiniti che ha l'archivio, parlando dei numeri che può creare un'idea di quanto sia impossibile capire da 77.000 filmati e 450.000 fotografie un'idea di quali possono essere i punti di interesse, periodi storici di interesse o fotografi di interesse anche. Immagino poi che si arricchirà continuamente. Non soltanto, la novità anche, una delle altre novità è che già questa pubblicazione online è accompagnata da un arricchimento con la messa online per la prima volta di tre nuovi fondi. Sono il fondo di Folco Quilici, uno dei più grandi documentaristi italiani scomparso da qualche settimana fa, e c'è il nuovo fondo di Mario Canale, un fondo molto importante per l'archivio. Sono quasi 4.000 fotografie, 4.000 filmati messi online, che coprono tutto il backstage del cinema italiano dagli anni 80 fino a quasi i giorni nostri. È un fondo molto particolare, che è divertente anche semplicemente vederlo soltanto con girato, senza interventi di montaggio molto spesso, dove si vedono i backstage di film importanti, da quelli di Fellini fino a quelli degli ultimi. Un altro aspetto fondamentale che ricordavi prima è che sarà una fruizione completamente gratuita. La proprietà è assoluta, i filmati sono a disposizione di tutti. Luce è stato anche uno dei primi a mettere, il primo degli archivi europei e forse anche mondiali, che ha messo anche su YouTube una parte del suo patrimonio. 30.000 filmati nostri sono su YouTube, sono gli stessi filmati che sono linkati anche direttamente al sito, e questa gratuità è certamente naturale, essendo un servizio pubblico alla fine. Roland, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Perfetto, Il riferimento è molto semplice, archivioluce.com, lì si trova tutto. allora un saluto e un ringraziamento al re regista Roland Seiko, che è anche direttore della redazione dell'Archivio Luce. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, a presto. Siamo con Angelo Signorelli di Lab 80, curatore della rassegna Al cuore dei conflitti all'Auditorium Piazza Libertà a Bergamo dal 2 al 6 maggio. Angelo, ben trovato. Ben trovati anche voi. A che edizione siamo? Alla nona. Alla nona. Ce ne parli un po'? Intanto parliamo di cosa si tratta per chi ci ascolta. Allora, sì, il progetto riguarda un po' le situazioni conflittuali che esistono nella contemporaneità, un po' sono situazioni conflittuali che riguardano situazioni geopolitiche, urbane, razziali, di classe, ma anche situazioni conflittuali che avvengono all'interno di piccole unità, piccole famiglie, comunità ristrette. È un progetto che alla Botanta sta molto a cuore perché comunque è un cinema che riflette sul presente e riflette in modo anche problematico, quindi tante domande che si pongono, magari poche risposte che vengono date, ma è giusto che sia così. Quante sono le opere di quest'anno? Allora, i film di quest'anno sono sei e riguardano molte. Tanto noi partiamo sempre il 25 aprile, proprio per agganciarsi a una situazione conflittuale del passato, ma che è ancora viva comunque nella coscienza politica e sociale e individuale delle persone. Quindi partiremo con il solito omaggio 25 aprile con i film I generali della Rovere di Roberto Rossellini. E poi ci sarà un interruttore temporale, riprenderemo il 2 di maggio dal 2 al 6 alla domenica 6 con appunto la proposta legata al presente, come dicevo prima. Considerato che sono 5 giorni, si proietterà un film per ogni giornata. Sì, cominciamo con Radio Kobani del mercoledì 2 maggio, questo documentario che vede come protagonista questa ragazza curda che trasmette appunto i bollettini non di guerra, di pace, di tutto quello che riguarda la situazione al confine tra la Siria e la Turchia, ed è un film molto interessante perché oltre a fare un'analisi e anche a mostrare le violenze, le crudeltà della guerra, però alla fine parla anche di ricostruzione, quando l'ISIS viene sconfitto e questa città devastata e completamente distrutta, si trova ad affrontare un presente ed anche un futuro, ed è molto interessante come il regista lavora appunto su questo cambiamento, su questa trasformazione, su questa voglia di ricominciare. Giovedì 3 abbiamo Los Perros, un film che è una coproduzione franco-cilena, e qui entriamo veramente in una dimensione forse più intima, forse apparentemente meno legata ai conflitti, ma che poi nella storia di questa persona che viene rifiutata che dalla comunità, in realtà poi emergono situazioni legate alla dittatura di Pinochet, al coinvolgimento appunto di questi membri della famiglia. Quindi una situazione privata che però poi si allarga a quello che è stato il passato del Cile. Venerdì 4 c'è Bobby Sands 66 Days, che è appunto una ricostruzione, un documentario tra l'altro fatto molto bene, molto intenso, di questa figura che è stata molto importante per l'indipendentismo irlandese. E in questa occasione ci avremo anche un incontro con Riccardo Michelucci, a termine presentazione del film presenterà il suo libro e ci sarà quindi anche una conversazione con il pubblico. Sabato 5 Fabrica Renada, un film un po' anche musical, sull'occupazione di una fabbrica appunto in Portogallo, e chiuderemo poi domenica 5 con Le Fils de Channe, che è una produzione franco-canadese e che riguarda proprio anche qui una storia personale. Quindi c'è una specie di viaggio geografico anche abbastanza ampio all'interno di quello che sono le situazioni della contemporaneità. Angelo, ci lasci tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, allora trovate tutto www.alcuoredeiconflitti.it, comunque oppure nel sito La Bottanta, www.labottanta.it, e lì troverete tutte le informazioni legate agli orari, ai costi del biglietto. Ci sono due serate, anche ingresso gratuito, la prima e l'ultima, la prima del 25 aprile e l'ultima del 6 maggio. Benissimo. Angelo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie anche a voi, buona giornata, arrivederci. Con noi Cristina Nisticò del Cine Club de Tour per parlare di un doppio appuntamento venerdì 4 maggio, Detained di Anna Parson, e poi sabato 5 Solo di cordata. Allora Cristina, ce ne parli un po' di questi due lavori? Ciao a tutti, è un piacere ritrovarti. Allora sì, tutto ci darei a dire che sono due proiezioni uniche. E adesso va di moda dire proiezioni evento, ma non mi piace, quindi sono due proiezioni uniche, quindi probabilmente non verranno ripetute, e quindi aspetto tutti numerosi. E allora sì, Detained è uno degli appuntamenti del primo festival di Amnesty International a cura del gruppo di Amnesty Roma Centro, che avrà l'ultimo appuntamento sarà il 18 maggio. Quindi questo è il penultimo e ne sono stati già abbastanza, con un ottimo riscontro di pubblico, di questo siamo molto felici, perché soprattutto una parte del ricavato andrà ad Amnesty. E, questo film Detained racconta la vita all'interno di un centro di detenzione svedese per immigrati a cui è stata rifiutata la richiesta di asilo in Svezia. Ma oltre a questo racconto su persone rinchiuse, non so neanche la parola più corretta, e ospitate da questi centri di detenzione molto moderni, parla anche comunque del disagio dei rapporti e del disagio delle persone che lavorano lì, e che ovviamente la burocrazia mette spesso in difficoltà e non possono aiutare le persone che sono lì per via di motivazioni totalmente strane all'umanità, che richiede ovviamente un posto di questo tipo. E, il film è girato da due donne, come dicevamo, registe molto giovani, che raccontano con sensibilità e pochissimo, però che sono svedesi, comunque non c'è nel tipo di pietà o di questi, purtroppo spesso, emozioni che poi offuscano invece i fatti e la realtà di un luogo di questo tipo. Raccontano freddamente, sarà che sono svezze, freddamente quello che accade, e comunque con una sensibilità e un approccio molto delicato nei confronti di chi si trova lì. E invece sì, abbiamo una... Senti, sarà presente in collegamento o fisicamente Anna Parson? In collegamento. Okay. Sì, in collegamento, perché è ovviamente abbastanza complicato poter invitare all'estero, certo, dei registi. E quindi ovviamente abbiamo preferito dare qualcosa ad Amnesty per supportarli, invece di invitare. Certo. Il budget è quello che è. Invece abbiamo quest'altra serata a cui vi invito a partecipare, con Solo di cordata, col regista Davide Riva, che invece ci sarà personalmente, che racconta, probabilmente molti già lo conoscono, la storia di Renato Casarotto, che è uno dei più grandi scalatori solitari conosciuti. Da quel che so, per chi si occupa di arrampicata e alpinismo, è veramente un eroe. Infatti ci è stato proprio chiesto di trovare questo film e di organizzare questa serata proprio per raccontare la sua storia. E, un grande alpinista che solo di cordata, proprio perché lui prediligeva la scalata solitaria, ed era un personaggio veramente forte, e con una compagna che l'accompagnava sempre. Ci tengo a dire che Goretta l'ha accompagnato anche dalla prima a raggiungere una vetta di 8.000 metri con lui, e nell'85. Poi la cosa interessante è che tutto questo che lui ha fatto l'ha fatto in tempi in cui non c'erano queste grandissime attrezzature, e soprattutto anche il fatto che non andava a rimarcare strade e